Diciottesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio, effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, diciottesimo canto. Posto avea fine al suo ragionamento l'alto dottore, e attento guardava nella mia vista, s'io parea contento. E io, cui nova sete ancor frugava, di fuor tacea e dentro dicea forse lo troppo dimandar ch'io fo li grava. Ma quel padre verace che s'accorse del timido voler che non s'apriva, parlando di parlare ardir mi porse. Ond'io, maestro, il mio veder s'avviva sì nel tuo lume ch'io discerno chiaro quanto la tua ragion parta o descriva. Però ti prego, dolce padre caro, che mi dimostri amore, a cui riduci ogni buono operare e il suo contraro. Drizza, disse, ver me l'acute luci dello intelletto, e fieti manifesto l'error dei ciechi che si fanno duci. L'animo, che è creato ad amar presto, ad ogni cosa è mobile che piace, tosto che dal piacere in atto è desto. Vostra apprensiva, da esser verace, tragge intenzione, e dentro a voi la spiega, sì che l'animo ad essa volger face. E se rivolto in ver di lei si piega, quel piegare è amor, quell'è natura, che per piacer di novo in voi si lega. Poi, come il fuoco muovesi in altura, per la sua forma che è nata a salire, là dove più in sua matera dura, così l'animo preso entra in disire, che è moto spiritale e mai non posa finché la cosa amata il fa gioire. Or ti puote apparer quant'è nascosa la veritate alla gente ch'avvea ciascun amore in sé laudabil cosa. Però che forse appar la sua matera sempre esser buona, ma non ciascun segno è buono, ancor che buona sia la cera. Le tue parole e il mio seguace ingegno, rispose io lui, m'hanno amor discoverto, ma ciò m'ha fatto di dubbiar più pregno, che s'amore è di fuori a noi offerto e l'anima non va con altro piede, se dritta o torta va, non è suo merto. Ed egli a me, quanto ragion qui vede, dirti poss'io, da indi in là t'aspetta pura Beatrice, che è opra di fede. Ogni forma sostanzial che setta è da matera ed è con lei unita, specifica vertute ha in sé colletta, la qual senza operar non è sentita, né si dimostra mai che per effetto, come per ver di fronde in pianta viva. Però, là onde vegna lo intelletto, delle prime notizie omo non sape, e dei primi appetibili l'affetto, che sono in voi sì come studio in ape, di farlo mele, e questa prima voglia, merto di lode o di biasmo, non cape. Or, perché a questa ogni altra si raccoglia, innata v'è la virtù che consiglia, e dell'assenso de tener la soglia. Quest'è il principio là onde si piglia ragion di meritare in voi, secondo che buoni e rei amori accoglie e viglia. Color che ragionando andaro al fondo s'accorser d'este innata libertate, però moralità lasciaro al mondo. Onde poniam che di necessitate surga ogni amor che dentro a voi s'accende, di ritenerlo è in voi la podestate. La nobile virtù Beatrice intende per lo libero arbitrio, e però guarda che l'abbia mente sa parlar ten prende. La luna, quasi a mezzanotte tarda, facea le stelle a noi parer più rade, fatta come un secchion che tuttora arda, e correa contro il ciel per quelle strade che il sole infiamma, alor che quel da Roma tra Sardi e Corsi il vede quando cade. E quell'ombra gentil per cui si noma Pietola più che Villa Mantoana, del mio carcar di posta avea la soma, perch'io che la ragione aperta e piana sovra le mie quistioni avea ricolta, stava com'om che sono lento vana. Ma questa sonnolenza mi fu tolta subitamente da gente che dopo le nostre spalle a noi era già volta. E quale Ismeno già vide e Asopo lungo di sé di notte furia e calca, pur che i teban di Bacco avesse ruopo, cotal per quel giron suo passo falca. Per quel ch'io vidi di color venendo, cui buon volere e giusto amor cavalca. Tosto fur sovra noi, perché correndo si movea tutta quella turba magna, e due dinanzi gridavan piangendo, Maria corse con fretta alla montagna, e Cesare, per soggiogare i Lerda, punse Marsiglia e poi corse in Spagna. Ratto, ratto, che il tempo non si perda, per poco amor, gridavan gli altri appresso, che studio di ben far grazia rinverda. O gente, in cui fervore acuto adesso ricompie forse negligenza e indugio, da voi per tepidezza in ben far messo, questi che vive, e certo i non vi bugio, vuole andar su, pur che il sol ne riluca, però ne dite ond'è presso il pertugio. Parole furon queste del mio duca, e un di quegli spirti disse, vieni di retro a noi, e troverai la buca. Noi siam di voglia a muoverci sì pieni, che restar non potem, però perdona, se villania nostra giustizia tieni. Io fui abate in San Zeno a Verona, sotto lo imperio del buon Barbarossa, di cui dolente ancor Milan ragiona, e tale ha già l'un pie dentro la fossa, che tosto piangerà quel monastero, e tristo fia d'avere avuta possa, perché suo figlio, mal del corpo intero, e della mente peggio, e che mal nacque, ha posto in loco di suo pastor vero. Io non so se più disse o sei si tacque, tant'era già di là da noi trascorso, ma questo intesi e ritenermi piacque. E quei che m'era ad ogni uopo soccorso disse, volgiti qua, vedine due venir dando all'accidie di morso. Di retro a tutti dicea, prima fue morta la gente a cui il mar s'aperse, che vedesse Jordan le rede sue. E quella che l'affanno non sofferse, fino alla fine col figlio d'Anchise, se stessa a vita senza gloria offerse. Poi, quando fuor da noi tanto divise quell'ombre che veder più non potiersi, nuovo pensiero dentro a me si mise, del qual più altri nacquero e diversi, e tanto d'uno in altro vaneggiai che gli occhi per vaghezza ricopersi e il pensamento in sogno trasmutai. Fine del 18° canto del Purgatorio.